Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie, grazie per la cortese attenzione, grazie a Carlo Ernesto Minga per la consueta visita annuale, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona settimana.